a casa? Piggini! Sei a casa, Bucci, perché qua non rispondi, no. Ora non stai a casa. Stai no, sto al mare. Stai al mare, prende il sole, queste belle giornate. E prendo l'acqua. No, sto a casa, dove sto? Sono a casa. Beh, certo. A casa. Beh, ormai non ci sto più neanche più bene, però. Ah. No, sto a casa, sto a casa, sto a casa. Ti stupate, Giancarlo? Anche se comincio a stufarmi perché prima ho detto varie volte che io disegno, quindi la giornata non se ne passa, ma non disegno neanche più perché mi sono stufato, la giornata non mi passa e mi passa anche male, perché mi passa bene. E quindi così. Ma stavo leggendo di uno che ha scritto che noi usciremo fuori dal problema che non c'è più nessun morto il 19 maggio. Ci avevano detto pure a che ora. Ha fatto un calcolo matematico, la matematica è non è un'opinione, quindi è una scienza, 2 più 2 farà sempre 4 in tutto il mondo, quindi la matematica è importante. Però, non lo so, speriamo. Speriamo che me la cavo, diceva quel film. Vabbè, okay, metà di maggio è arrivato, manca poco. Ah sì. Però il problema a maggio sarà 10 volte maggiore, quindi. Mi incazzo sempre di più. C'è adesso una notizia che sono bloccate 300.000 mascherine prodotte in Italia, non è che l'hanno dovuto dire alla Cina, per la burocrazia. Sono bloccate e sono indispensabili, chi sei carabinieri che non ce l'hanno, i medici che non ce l'hanno, sono indispensabili, sono bloccate e stanno in Italia, quindi esistono e sono bloccate. Figuriamoci se sbloccheranno 750 miliardi che neanche esistono, e sono chiacchiere, fantasie. Ma che cazzo sta succedendo? Ah, una cosa, fammi questa, può essere interessante. Cioè in provincia, noi nei paesi, quando succedeva qualcosa di particolare, di eclatante su una persona magari, era normale dire: ma di chi è lo figlio? Di chi è figlio? O che scuola ha fatto? Che scuola ha fatto? Ma mo, Conte, da avvocato anonimo che non conosceva nessuno, lei era un politico, un filosofo, ha fatto l'avvocato, ma è presidente del consiglio. Ma di chi è lo figlio, Conte? Lo sappiamo? Che scuola ha fatto, Conte, per sapere se è in grado di gestire questa situazione?